Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Italia. L'Italia vista da fuori e da dentro è il titolo del libro di Lucio Stanca. E buonasera, Lucio Stanca. Buonasera. Lucio Stanca vede appunto in questo libro la sua esperienza di vita, un'esperienza che lo ha portato ad essere capo della IBM in Italia e in Europa, quindi un'esperienza in una grande azienda privata, multinazionale, e poi una visione di una vita pubblica. È stato ministro dell'innovazione nel secondo e terzo governo Berlusconi dal 2001 al 2006 ed è stato anche parlamentare, è vicepresidente dell'Aspen Institute Italia ed è stato dal 2009-2010 anche amministratore delegato della società Expo 2015. Quindi una duplice esperienza, l'Italia vista da fuori e vista da dentro. Dottor Stanca, una grande differenza tra le due cose. Sì, ho avuto appunto la sorte di lavorare prima per una multinazionale in Italia e poi per oltre 15 anni fuori dal nostro paese e quindi mi è stato facile confrontare l'Italia con le altre realtà nazionali, soprattutto in Europa. Poi, dopo una vita di più di 30 anni di lavoro in questa società, gli ultimi 12 nelle istituzioni, e quindi vedere l'Italia da dentro alle istituzioni, dal Consiglio dei Ministri, dal Parlamento, e quindi due punti di osservazione che si legano nell'osservare l'Italia, soprattutto i profondi problemi che abbiamo accumulato, sì, ma anche le possibilità di riuscire a superare questo momento non solo di crisi degli ultimi anni, ma diciamo strutturalmente negli ultimi 20-25 anni il nostro paese non è cresciuto, offre poche opportunità, poi la recessione degli ultimi anni ha peggiorato, però il problema è di fondo, non è solo del ciclo. Ecco, lei si è accorto, sperava di portare nella vita pubblica i paradigmi, le regole, i valori di quello che si vive in azienda, e poi questa esperienza è stata un po' disarmante nel complesso. Sì, beh, insomma, ho trovato una differenza molto più grande di quello che immaginava, che potevo immaginare prima di entrare nel mondo pubblico. In effetti le logiche, le dinamiche, i tempi sono totalmente diversi e quindi la distanza della politica dai problemi reali. Certo, ecco. Lei racconta per esempio che è entrato nel ministero, ci sono voluti 9 mesi per avere una targa di ottone che indicasse che lei aveva l'ufficio in quel posto. Ci vuole meno a fare un figlio che non avere una targa di ottone. Un dipartimento nuovo, una sede nuova, nessuno sapeva dove eravamo, avevo chiesto una targa, 9 mesi, e faceva la battuta a dire che è più facile fare un figlio che avere una targa di ottone. Secondo certi parametri, un capitolato d'appalto probabilmente. Ma racconto anche episodi un po' anche più seri e più importanti, proprio dell'inizio di questo impatto. Dico che la sensazione di essere atterrato in un pianeta diverso, per la diversità tra la multinazionale, l'organizzazione, i risultati, il merito come pilastro centrale, e quindi la responsabilità, l'efficienza, e trovare nella pubblica amministrazione tutto fuorché questo. Quindi lei appunto dice responsabilità ben definite, l'innovazione non solo come prodotto ma come attitudine mentale, lo spirito di squadra per collaborare con tutti i colleghi, la cultura del risultato, la perfezione nell'esecuzione dei piani operativi era quello che contraddistingueva una società multinazionale, e la realtà invece della politica, della gestione politica era completamente diversa. Ma era completamente diversa ed era difficile, è stato difficile cercare di smuovere qualcosa. Indubbiamente sì, io, se mi fa la domanda sono soddisfatto dei risultati ottenuti, dico no, anche se qualcosa di importante è stato fatto a campo di innovazione e tecnologia, non era quello che pensavo di poter fare, perché ci sono delle resistenze al di là dei ritardi culturali proprio nella politica stessa e la disattenzione. Parlare di innovazione tecnologica bisogna avere uno sguardo molto lungo, non si fa in pochi mesi. La politica è miope, soprattutto la cattiva politica che guarda all'immediato, come la mia battuta è che l'innovazione tecnologica non fa audience in televisione, non riempie le piazze, quindi alla politica non può interessare. Non fa consenso. Mentre noi siamo condannati all'innovazione, noi in quanto un'economia avanzata, moderna, o decidiamo di diventare poveri e quindi di competere sui costi con la Cina o le Cine del mondo, oppure dobbiamo dare più valore aggiunto, più contenuto, e questo attraverso nel XXI secolo si fa attraverso la tecnologia. Ecco, lei auspica una rivoluzione copernicana negli uffici pubblici che spendono molto denaro per mantenere se stessi. Il 35% sì. Dice dell'apparato pubblico è un costo che è costituito proprio dal fatto di esistere, non di fare dei servizi per gli altri. Sì, la sfida di fondo, una delle grandi sfide che abbiamo, se vogliamo rimettere in carreggiata il nostro paese, è quella di ridefinire il perimetro del pubblico e non solo combattere gli sprechi che ci sono e si possono recuperare tanti denari, quindi parliamo di miliardi, ma anche un po' di ridisegnare il nostro stato sociale. Noi non possiamo promettere tutto a tutti, sapendo che non possiamo più mantenere questa promessa, e quindi va ridisegnato in termini più moderni, cercando di dare maggior protezione a chi ne ha veramente bisogno ed evitare tutto lo spettacolo, vediamo, di approfittatori che mungono, certo, questa mucca che è lo Stato sociale, che dà a tutti e che si paga con una pressione fiscale oggi insostenibile, sì, per le imprese e per le famiglie. Quindi va rivisto, e quindi è un'operazione di ingegneria che richiede una politica molto forte, molto determinata. Anche perché il nostro è un paese sì di diritti acquisiti che molto spesso diventano dei privilegi acquisiti, certo, e spostare i privilegi acquisiti, soprattutto quando sono diffusi, è molto difficile. In questo senso la politica ha un compito molto forte. Ecco, però lei nel suo capitolo dedicato all'Italia vista da dentro dice: eppure ce la possiamo fare. Eh sì, perché questo paese, proprio guardando le esperienze che ho fatto all'estero, questo paese è vivo malgrado tutto, ha energie, è ricco. Noi siamo stati bravi nel risparmiare, nel accumulare ricchezza, quindi abbiamo anche le risorse finanziarie, abbiamo poi una storia, un passato, un'identità straordinaria, quindi noi abbiamo degli asset, quindi dei capitali, dei beni che possiamo dover sfruttare. Ma manca innanzitutto la leadership capace di veramente radicalmente rimettere in una traiettoria più giusta il paese, ma poi manca anche una coesione. Noi siamo stati divisi in tutta la nostra storia, ma anche nella storia recente degli ultimi 20-30 anni noi siamo stati troppo divisi. Quando si vede la Germania, che è stata in crisi recentemente, qualche anno fa, piuttosto che l'Inghilterra negli anni 80-90, la Svezia, la Spagna, eccetera, la lezione di fondo è che questi paesi sono riusciti a venire fuori da una crisi soprattutto in termini di coesione nazionale, di mettere tutti insieme verso un obiettivo. A noi manca il progetto, a noi manca questa capacità che il governo che viene dopo, se è di colore diverso, non deve cancellare, certo, quello fatto dal governo, perché l'ha fatto il governo nazionale, capito? Ecco, c'è un molto significativo proprio in questa prospettiva, la prefazione di Piero Ostellino a questo libro, che lo ricordo, L'Italia vista da fuori e vista da dentro, in cui proprio sottolinea come il libro di Stanca, scrive Ostellino, ci aiuta a capire meglio come stanno le cose, che siano esse o no dipendenti dalla nostra volontà, e ci induce a riflettere su quali possono essere le nostre personali responsabilità di cittadini. E c'è anche una breve citazione di Albert Einstein in cui si dice: è nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Quindi è un libro che vuole avere anche uno spirito, diciamo, di richiamo alla responsabilità, sì, perché poi in fondo il futuro dipende da noi, è l'unica cosa che abbiamo. Sì, in fondo ho scritto, ma perché ho scritto questo libro? L'ho scritto soprattutto per dare, come dire, una maggiore responsabilità ai giovani. Ecco, sui giovani si sofferma infatti molto. Perché noi abbiamo bisogno davvero di avere un sogno, di avere un progetto, ma non per i prossimi 6 mesi, ma direi per i prossimi 10-20 anni. Dove vogliamo essere? Come vogliamo essere? Qual è la nostra strategia di paese, di nazione coesa e unita? E credo che una leadership forte e più preparata possa venire non per una discriminazione di età, perché io non sono più giovane e quindi rottamare è sbagliato, ma credo che in un paese che rischia di avere molta geocrazia, di certo. vecchi più che dei giovani, avere energie fresche con una visione più a lungo termine possa essere assolutamente necessario e benvenuto al nostro paese. Anche perché in questo paese ci vuole una logica del cambiamento, dato che quello che si è fatto fino ad ora abbiamo visto che non ha dato grandi risultati, abbiamo avuto 20 anni di stagnazione già prima che arrivasse la grande crisi, allora bisogna cambiare, i giovani possono avere questa forza di cambiamento, ma non cambiare per cambiare, cambiare anche tenendo conto delle esperienze, tenendo conto della realtà. Ecco, un'osservazione che metta insieme l'Italia vista da fuori e vista da dentro, nella prospettiva generale, molti giovani vanno all'estero, speriamo che tornino, cosa possiamo dire ai giovani? Certamente di fare esperienze, ma di avere anche molto realismo in quello che fanno. Sì, e di mettersi in discussione, di avere coraggio. Di mettersi alla prova, di assumersi delle responsabilità e di lavorare nel creare una coesione maggiore a livello della nazione. Noi è da parecchio che soffriamo, sono 20-25 anni quando la storia ha accelerato, cioè la rivoluzione della globalizzazione, le frontiere che sparivano in termini commerciali, la rivoluzione della tecnologia, di internet e quant'altro. In quel momento, quando tutto cambiava intorno a noi, l'Italia forse appesantita, sazia innanzitutto da tanti anni di benessere, appesantita da debito pubblico, distratta da Mani Pulite e da quant'altro, non se le sentire, non è stata capace di cambiare passo, di rigiocarsi la propria partita. Abbiamo cominciato un declino che basta vedere i numeri, abbiamo certo. perso man mano di stacco. Noi possiamo recuperare, però occorre davvero una politica forte e degli strumenti forti che oggi la politica non ha. Noi abbiamo un governo istituzionalmente debole a fronte di un Parlamento istituzionalmente forte. Quando ci guardiamo in giro, vediamo solo in Europa, lasciamo perdere America, Asia, solo in Europa vediamo che i governi sono molto più, hanno più potere nell'incidere, e quindi una politica che possa andare più in profondità e meno compromessi al ribasso. Non abbiamo più bisogno di manovre, certo. non abbiamo, abbiamo bisogno di riforme, di grandi politiche, di grande livello, di grande visione. Abbiamo anche bisogno, lei lo sottolinea nel libro, di una visione culturale in cui l'impresa ritorni ad essere protagonista. L'Italia ha penalizzato per esempio le grandi imprese, ha penalizzato la possibilità che un'impresa diventi da piccola a media, da media a grande. Più cresce l'impresa, più vincoli, più oneri, più sistemi burocratici deve affrontare deve verificare. Ecco, in questo senso c'è anche una rivoluzione culturale da fare. E tant'è che se si guarda, io lo dico nel libro, se si guardano le classifiche di Mediobanca oggi, 20 anni fa, noi abbiamo perso parecchie grandi imprese, grandi nomi sono scomparsi, e quindi con tutto il merito della piccola e media impresa, che è un grande patrimonio per il nostro paese, ma noi non possiamo competere a livello mondiale solo ed esclusivamente con la piccola impresa, che strutturalmente, per esempio nel campo di innovazione tecnologica, non può competere con i giganti. Cioè, basta pensare che solo un'impresa americana ha il budget della ricerca e dell'innovazione di tutto il sistema paese italiano, solo un'azienda. Quindi, insomma, dobbiamo darci una mossa, dobbiamo essere capaci di reagire, perché da troppo tempo che stiamo scivolando. Ecco, in questa prospettiva, per dare anche un messaggio positivo, lei dice giusto o sbagliato, questo è il mio paese, però quindi bisogna che questo paese si avvii sulla strada giusta anche ai giovani, bisogna forse dire che l'Italia ha dei grandi fattori positivi, degli elementi, dei valori anche umani, anche di esperienza, di conoscenza, di invenzione, che possono portare l'Italia ad essere un grande paese. Sì, basta guardare fuori dall'Italia di nuovo e vedere quanti italiani hanno successo, messi in condizioni giuste, in un sistema meritocratico, in organizzazioni efficienti, il talento italiano, le qualità italiane che davvero sono apprezzate, lo posso dire senza retorica, all'estero, possono essere applicate e utilizzate anche in Italia per creare un nuovo rinascimento del nostro paese. Quindi possiamo farcela, però dobbiamo impegnarci tutti, cominciando dalla politica. Certo, e anche conoscere le cose, conoscere qual è la realtà, e su questa realtà cercare di costruire valorizzando le cose positive. Questo è anche lo spirito del libro di Lucio Stanca, che ringraziamo di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro L'Italia vista da fuori e da dentro, con prefazione di Piero Ostellino. Sono 148 pagine per 19 euro, è edito dal Sole 24 Ore. Grazie a Lucio Stanca, grazie a Roberto Scartritti in regia.